luoghi comuni di Riccardo Poli, Alessandro Longoni e Beppe Salmetti. Io voglio cominciare con un coming out. Non ho mai detto questa cosa a nessuno, veramente a nessuno. Ma veramente? A nessuno, amici, parenti, colleghi, fidanzata. Che la vuoi dire alla radio, cioè tu vuoi dire a tutte le persone a casa che... Comunicato stampa, vai. Voglio fare un coming out. Allora, io, questo è il mio coming out, che per me è importante. Sì. Allora, il primo disco che ho comprato in vita mia, ok, primo CD, sì, è stato un disco dei Backstreet Boys. Per così poco. Io ho visto un video di Riccardo Poli che interpreta i Backstreet Boys insieme ai suoi amici di provincia, direi molto molto peggio. Sì, effettivamente questo era il mio coming out, perché l'avevo fatto. Te l'ho bruciato, vedi? Aspetta, aspetta, tipo era questo? Io avevo 13 anni, 14, sentì Backstreet Back dei Backstreet Boys. Backstreet's Backs, alright. Era questo giro di basso. Metti che via quell'asciugamano. No. Non mi colpire con quell'asciugamano. Anzi, colpiscimi. Beh, però stai calmo. Di più. Però vorrei chiarire che per me la vergogna, tra virgolette, di aver comprato un disco dei Backstreet Boys non era per le mie, come dire, preferenze sessuali, dato che state sollevando un po' questa idea, no? Ma in realtà il fatto che io sono sempre stato un ascoltatore di musica heavy, hard rock, psichedelica, grunge, no? Molto dura, molto forte. Quindi il secondo disco che comprai, presi un disco di Smashing Pumpkins, Revirgination praticamente, bravo, poi comprai Nirvana. Però come primo disco, e non lo sanno neanche i miei amici metallari, quindi lo scoprono adesso. Ecco perché non usava quegli accordi quegli anni con noi. E infatti quando eravamo in macchina, o comunque quando si parlava, dicendo: ah, ma qual è il tuo primo disco? Ah, io ho preso Master of Puppets dei Metallica. Ah, io e Pantera. E io gli Smashing Pumpkins. E in realtà non era vero. Avevo comprato i Backstreet Boys. Quindi l'ho detto oggi. L'hai detto oggi, hai fatto ufficialmente coming out. Allora, cari ascoltatori, come avete potuto capire, oggi parliamo di mondo omosessuale, parliamo di gay, perché il coming out è indissolubilmente legato nelle nostre teste al mondo omosessuale. Ma in realtà non è così, perché ognuno di noi ha un coming out. Scusate, posso fare un coming out volante? Ti prego. Sì, prego. Quando ero piccolo ero innamorato di Lady Oscar. Così, lo metto sul tavolo. Rimaniamo però tutti nell'area, no, delle preferenze sessuali. Sì. Avrei preferito che un coming out, non so, mi scaccolo e attacco le caccole sotto al divano. Questo non era da dire. Questo è il coming out. No. Comunque, allora diciamo appunto, parliamo di luoghi comuni sul mondo dei gay, il coming out. Ce ne sono tantissimi. Ovviamente lo facciamo sul mondo dei gay perché siamo tre maschi, quindi non parliamo del mondo lesbico perché non siamo titolati. È vero, non ne sappiamo nulla. C'è del maschilismo in questa cosa. C'è del grosso maschilismo. Perché quando si parla di omosessualità si parla solo di gay, di uomo e uomo? Lo scopriremo, anche di prossima puntata faremo una puntata sulle lesbiche. Anzi, se avete qualche luogo comune sulle lesbiche, potete mandarci un WhatsApp al 340-8303-758, oppure mandarcelo attraverso i nostri canali social. Sì, Instagram, su Instagram, offtopic24. Allora, dove eravamo rimasti? Ah sì, ha un po' di luoghi comuni sui gay. Esatto. Tipo, si sanno vestire meglio. Esatto, non gli interessa il calcio. Bravo. Poi ogni donna ha un migliore amico gay. Questo è molto vero. Cioè, ognuno ha il suo proprio. Sì, esatto. Cioè, di proprietà. Quello con cui lo chiama. Quello con cui va a fare shopping, però. Ecco. Esatto. Io ho un amico gay, però. Cioè, però... prima di criticarlo, ovviamente. Certo. E infatti, non ho niente contro i gay, ma certe cose è meglio farle in privato. Sì, anche se dietro le facessero in privato sarebbe molto meglio. Esatto, alcuni sì, è vero. Anche la loro faccia potrebbe rimanere in privato e non farla vedere di chi dice questa frase. E forse quello più, diciamo, abusato è che i gay sono sensibili. A tutti è una pura ovvietà, inutile negarlo, lo sa anche il tuo papà. Danzi in cameretta con la tua manina al vento, l'ho capito al volo, mi è bastato un momento. Da grande sarai frocio, è scritto nelle stelle, il dolore arriva ma tu tanto sei già diva. Da grande sarai frocio, ma non si può dire. Oggi a Pordenone nasce un piccolo busone, cresce, sogna. Allora, abbiamo messo questa canzone, Da grande sarai frocio è il titolo della canzone, anzi ci sono un po' di asterischi nel titolo, ma l'abbiamo fatto perché abbiamo con noi ospite Emanuele Casto. Ciao Emanuele. Ciao, grazie per l'invito. Emanuele. Allora, Emanuele è un cantautore, è dichiaratamente gay, è fatto coming out, e sei un ideatore di giochi di ruolo. Da tavolo, scusa. Non di ruolo, è il Casto divo italiano, è il Mario Callas, è il Ryan Gosling. No. Sapete che assomiglia moltissimo a Ryan Gosling? È vero. Mi lusinga molto, me l'hanno detto più volte, sì. Esatto. E tra l'altro è anche presidente del Mensa Italia. Esattamente. Che cos'è? Velocemente proprio. Allora, il Mensa è la più importante associazione internazionale che si occupa di plusvotazione cognitiva. È, cioè, un'associazione di cui possono essere soci coloro che superano un test di intelligenza logico-spaziale che può essere superato dal 2% della popolazione con il più alto quoziente intellettivo. Quindi noi saremmo fuori. Esatto. Penso di sì. Va bene. Non lo so ancora. Lo dissimulate molto bene. Esatto. Tu ad esempio che QI hai? Sufficiente a passare il test del Mensa. Non sono un feticista della dimensione, è meglio dimostrarlo. Esatto. Cioè, non conta com'è, ma come lo usi. Come lo usi. Esatto. Esattamente. Tanto grazie per esserti vestito così, perché smentisci il luogo comune secondo cui i gay si vestono bene. Che meraviglia, grazie. Tra l'altro potete vederlo sul nostro canale YouTube, che insomma è abbastanza seguito, quindi potete anche vedere Emanuele in video. Ma partirei dalla canzone, Emanuele. Sì. Il termine frocio si può usare? Beh, chiaramente è un insulto, è un termine denigratorio, ma il senso di utilizzarlo in una canzone è proprio di riappropriarsene. Come dice Tyrion nella prima puntata di Game of Thrones, dato che gli altri non se ne dimenticheranno, dillo tu stesso e usalo come un'armatura. E poi la cosiddetta autoironia, che è veramente una risorsa. Difatti i titoli delle tue canzoni sono abbastanza esemplari, a parte da Grande Sarai Frocio, poi c'è Io Batto. No, sì, non è un titolo di una canzone. Siamo ancora, non hai studiato, fra l'altro, prima che ne muovessi i primi passi in ambito professionale. Quello è una raccolta di un florilegio di scritti, diciamo. È come Baudelaire, praticamente. Però sicuramente Tropicana e Escort 25, questi insomma che sono quelli molto... sono due classici ormai del cantautorato italiano. Due posso leggerti un pezzettino al volo? Allora, vai. Quanto è Gaia la papaya che sentiamo dentro al cuore? Io rimango come un mango da aprire qui per te, mangio e godo l'avocado, guacamole su di me. C'è un poeta, cioè questa rima baciata, sì, quando l'ho sentita perché stanotte ho ascoltato un brano, sono rimasto toccato, colpito dentro. Sì, e ti faccio questa domanda: esistono dei frutti gay? Anche la frutta. Allora ti spiego. No, è una domanda estremamente intelligente. Quanto è Gaia la papaya? È una domanda retorica, però c'è chi si è interrogato. È che per stimare la gaiezza della papaya dovremmo definire un'unità di misura della gaiezza. Della frutta, per appunto. Cioè, da applicare alla frutta, poi. Bellissima. Veramente il presidente del Mensa. Sì. Perché io sto vedendo un nerd davanti a me incredibile. Ma certo, e comunque questo devo dirlo. A proposito di coming out discografici, il primo album che io ho comprato è stato un album delle Spice Girls. Vabbè, ma ragazzi, è bellissimo. Ecco, quando hai capito di essere omosessuale? Allora, già i primi sospetti quando guardavo i Cavalieri dello Zodiaco e mi identificavo con Andromeda. Chiaro. Okay. Dopodiché, quando con Sailor Moon le guerriere mi hanno insegnato che per combattere il male devi metterti lo smalto, una minigonna inguinale e un tacco a spillo, ho avuto la conferma di essere gay. Ma facevi anche quei gesti che facevano loro? Cioè... Beh, certo, come pensi di sconfiggere il male senza una coreografia? Ce lo puoi ripetere, per favore, ce lo puoi ripetere, lo sai? È molto radiofonica una coreografia. Sì, abbiamo un video su YouTube per quello. Ok. Potere di Venere, vieni a me! Bellissimo. Senti, ma Emanuele, ovviamente abbiamo detto prima, l'ironia è la cifra stilistica delle tue canzoni, però sai che quando componi questi brani c'è qualcuno che si può sentire offeso, si urta e così via. Cioè, perché hai scelto questo tipo di linguaggio? Perché ti piace anche urtare la sensibilità? Visto che parliamo del luogo comune, che i gay sono sensibili, sembra quasi che tu te ne batta le balle. Capisco che possa sembrare questo, ma per me è un effetto collaterale. Io non mi metto al tavolo pensando adesso voglio dar fastidio a questa categoria di persone. Dico adesso voglio far sentir capita questa categoria di persone. E andare a combattere dei luoghi comuni, riapproparsi di un certo lessico, fa parte di questo approccio anche liberatorio. Ovviamente sì, c'è qualcuno a cui non possono non piacere le mie scelte artistiche, che comunque sono determinate in gran parte proprio da intuizione artistica. Alla fine, anche se non lo facessi a livello professionale, lo farei. Il mio gusto artistico va in questa direzione. Sì, è una querela molto sentita anche in questi mesi, confondere ciò che fai con ciò che sei. Cioè, tu sei un artista, quello che scrivi è una canzone, dopodiché Manuel Cuni è un'altra persona. Esattamente. Credo che manchi proprio il concetto di finzione artistica. Per me, nella finzione, che è sacra proprio perché è finta, ci deve essere massima libertà, purché appunto sia finta. E il gioco, dopo magari ne parliamo, è fra l'altro una delle manifestazioni in cui è maggiormente verificabile quanto sia finta questa cosa. Se noi guardiamo un film e vediamo un omicidio, ok, immaginiamo che non sia uno snuff movie e che quello sia un attore, ma la certezza assoluta potremmo non averla. Certo. Mentre se io gioco una carta e con la mia carta ti distruggo un personaggio, io stesso sto verificando che non sto uccidendo nessuno. Però questo passaggio non è scontato, quindi si tende a far coincidere l'arte con la verità e il personaggio con la persona. Senti, ma ti sei mai sentito tu più sensibile degli altri? Sì. ma non ritengo che questo combaci con una specifica caratteristica congenita. Sì, abbiamo parlato di stereotipi, anche stereotipi sì. positivi, come i gay sono più sensibili. Ritengo che spesso l'evoluzione passi anche dall'eccesso. Quindi per combattere uno stereotipo negativo se ne pone uno positivo. Anche un po' il concetto di pride. Molti eterosessuali in buona fede dicono: ma perché uno si deve dire orgoglioso di essere omosessuale? Cioè, allora io mi non dico basta orgoglio. Esserlo, certo. Esatto, il ragionamento è corretto. L'unica cosa è che se da meno uno devi passare a zero, devi aggiungere più uno. Certo. Il messaggio corretto sarebbe non vergognarti, ma è un po' fiacco. Quindi certo. sii orgoglioso di quello che sei. Questo bisogna è il spingere senso. Un po' sull'acceleratore, insomma. Esatto, questo è il senso. Tuttavia, adesso inizio a vedere nei media, serie così, omosessuali con dei ruoli negativi, antagonistici o controversi. Cioè, per esempio? Ma mi viene in mente tipo nella Casa di Carta, nella mm-hmm. seconda stagione c'è un personaggio, oppure nella settima stagione di Dexter, l'antagonista è a un certo punto... Quindi esistono gay cattivi, ci stai dicendo questa cosa? Secondo me questo è proprio un indice molto positivo, il fatto che si possa far interpretare loro, stessa cosa è successo con gli afroamericani, ruoli di villain negativi. Ma stanno diventando meno sensibili comunque sì, è vero. I gay negli ultimi anni, fatemelo dire. C'è una decrescita. Ma i gay sono acidissimi, di cosa stai parlando? Sì, in effetti questo è anche un altro luogo comune che non abbiamo detto per non offendere nessuno. Allora, hai paura del buio, Emanuel? No. Sto per fare un gioco, allora aspetta. Oddio, i giochi di Salmetti, sì, no, sì. Allora, prego. Beppe si è appena alzato, ha preso una bendina, come si chiama? Una mascherina nera. Sì? Quella per i giochi un po' erotici, diciamo. No, vabbè, ho capito. E la sta il nostro ospite, non è normale fare una cosa di questo genere. La sta indossando Beppe. Al nostro ospite. Quindi in questo momento Emanuel Casto è cieco. Non vede okay. assolutamente cosa nulla. Cosa vuoi fare, Beppe? Scusa. Allora, voglio fare un gioco. Voglio vedere se si capisce da una carezza sì? chi... Allora, Emanuel, non ti abbiamo detto una cosa prima di cominciare questa trasmissione. Sì? Uno di noi qui dentro è gay. Ma non è vero? Sì, sì, sì, no, uno di noi è gay. Uno di noi è gay. Ora noi ti facciamo una carezza e tu dovrai capire dalla carezza chi di noi è gay. Ma che molto facile, è? Molto facile. Allora, cominciamo con la prima carezza. Scusate, sento una cosa che spinge, cos'è? No, no, è sempre Salmetti. È il nostro, okay. è il nostro okay. gnomo porcellone che sta sotto okay. al tavolo. Va bene. Mm-hmm. Ok, la prima carezza è stata fatta. Poi andiamo con la seconda. Alla seconda carezza. Ok, si sta facendo una carezza a Emanuel Casto. E poi facciamone un'altra, dai. Carezza. Ok. Perfetto, puoi toglierti tranquillamente questo oggetto malefico. Allora, abbiamo avuto tre carezze, giusto? Quindi il gay è la prima carezza, la seconda carezza o la terza carezza? Data la comprovata validità scientifica di questo esperimento fatto, se devo azzarderei la prima. Ma spiegando il senso, sì. la prima era quella naturale, la seconda invece mi è sembrata affettatamente femminea, la terza invece sembrava tradire un certo distacco emotivo. Quindi stiamo facendo psicologia, il distacco, sappi che il distacco emotivo era di Riccardo. Esatto. E invece quella femminea era di Alessandro Longoni. No, la prima era di... No, la prima non era femminea, la seconda. Non seconda, ti discolpare. Seconda, la prima era di Beppe Salmetti. La prima no, era di Giulia Marziali, la nostra social media, quindi era di una donna. La quindi prima. effettivamente Emanuel ha una spiccata sensibilità, devo dire questa, ha una spiccata sensibilità. Benvenuti alla nostra serie, verificate la vostra virilità. Sei vestito in modo adeguatamente virile? Molto. Sei pronto a impegnarti? Sì. Sei un vero uomo? Sì. Alzati in piedi. Stai bene eretto. Sistemati. Non i capelli. Il pacco, femminuccia. I gioielli di famiglia. Acchiappali bene. Sei in un bar. Ok. Ripeti con me. Au. Oh! Bella fica! Bella fica! Che deliziose tendine! Che deliziose! Fregato! Porca miseria! E questo era In and Out sì. con un magnifico Kevin Kline che stava facendo la prova per vedere se era gay o meno. Esatto. Ma le tendine sono gay, scusate. Beh, pare di sì. Pare di sì. Va bene. È un complemento d'arredo che comunque concerne il senso estetico. Quindi può essere. Io sono gay, allora è un periodo che compro solo cose su applicazioni dico questa, per la casa. Mia mamma, dopo 10 anni, è entrata in casa mia, ha visto le tende e ha detto: da quanto non le lavi? Da 10 anni, gli ho detto. Quindi non lo so se questo sia sintomo di. Vabbè. Allora, dato che siamo 4 uomini, 1 omosessuale, 3 eterosessuali, a parte poi la nostra Giulia Marziani in studio, abbiamo bisogno di una donna. Allora mm-hmm. abbiamo chiamato Lia Celi. Ciao Lia. Ciao, ciao ragazzi. Ciao, mamma ciao. Mia, scusate, devo ancora riprendermi perché questo giochino delle carezze non visto era veramente così molto, molto stuzzicante. Voi non sapete che per le donne, cioè si dice che per gli uomini le lesbiche sono eccitanti, sappiate che anche per le donne i gay, specie se giovani, e voi siete tutti molto più giovani di me, e carini, sono molto, molto così, interessanti, intriganti. pianti. Allora Lia, non ti ho presentato i nostri ascoltatori. Tu sei giornalista, scrittrice, autrice televisiva. Sei stata anche nella squadra storica di Cuore, se non sbaglio. Perché oggi ho già fatto un errore con Immanuel sulla Io Batto. Spero di non sbagliare con Lia Celi. Tra l'altro campioneremo Io Batto, perché è una cosa che useremo da qui all'infinito. Adesso per punirmi ascolterò tutta la discografia di Immanuel, che tra l'altro è anche più estesa di quella dei Guns N' Roses, devo dire. Perché i Guns N' Roses hanno fatto due dischi forse, e poi 2000 best of, e lui ne ha fatti 4-5 dischi. Allora Lia, tu hai mai fatto un coming out? Guarda, io già ho fatto fatica a imparare a dire coming out, perché ero di quei tonti che all'inizio dicevano outing, no? E finché le mie figlie mi hanno sgridato aspramente, non si dice outing, si dice coming out. Quindi... Si può dire che tu sei una boomer, quindi? Guarda, anche lì per un anno me la cavo, perché stai cercando di salvarti, però dillo, dai. Sono del 65, pare che sia l'anno in cui si smette di essere boomer e si entra nella generazione successiva, che credo che sia la X, per il rotto. Della cuffia. Senti, Lia, tu hai 4 figli, di cui 2 adolescenti, 2 come li possiamo chiamare? Post-adolescenti, maggiorenni, adulti, esatto. Sì, ecco, diciamo 2 minorenni e 2 maggiorenni. Potrebbero già diventare padri e madri, così almeno sfatiamo il mito, ma che in realtà è reale, che non si fanno più figli. Scusa, in Italia. Genitore 1, genitore 2, abbi pazienza se vogliamo essere 2020. No, la domanda è: come affronti il tema dell'omosessualità con loro? O meglio, è un tema? Guarda, è un tema, non ho dovuto affrontarlo, ma è un tema, guarda, quasi più... Non ho vissuto sicuramente con drammaticità, perché veramente per gli adolescenti di oggi mi rendo conto che chiedere ti piacciono i maschi e le femmine è come chiedere vuoi più bene alla mamma e al papà, una domanda veramente stupida. E oggigiorno mi pare che così la rigidezza su certi argomenti, su certi temi, ti bolli già come vecchio, cioè sei già vecchio. Anche, mi spiace dirlo, ma anche delle cose, gran parte dei discorsi che ho sentito, che voglio dire, per gente della mia età, cioè nata negli anni 60, sono molto avanti. Ma per ragazzi che hanno 20 anni adesso sono già di retroguardia, perché loro sono già più avanti su certe cose. A volte veramente il problema non se lo pongono proprio. Secondo te l'Italia, Lia, è più omofoba o più maschilista? Credo più maschilista, ma anche parlo anche da donna, cioè i ruoli, non parlo della sessualità, certo, dell'orientamento, ma proprio dei ruoli sono ancora molto importanti. L'omofobia, diciamo, vera e propria è limitata a certi aspetti di fondamentalismo politico o religioso. Poi vedo per esempio che nei gruppi dei maschi, ho vissuto, come dicevo, nella redazione di Cuore, dove erano tutti maschi e tutti quasi tutti eterosessuali, però lo scherzo, la battuta, anche lo scimmiottamento dell'omosessualità nei gruppi di maschi è molto più presente che nei gruppi analoghi di femmine, no? Le femmine non si fanno battute sul lesbismo tanto quanto i maschi di una certa età la fanno sull'omosessualità. Cioè è un argomento che preme comunque, di cui si vorrebbe parlare, qualcosa che pesa e che credo anche le canzoni come quelle di Immanuel aiutano a tirare fuori, attraverso l'ironia se ne esorcizzano, può parlare. Esorcizzano. Infatti, Immanuel, una cosa che mi chiedevo, secondo te l'Italia è un paese moralista? Sì, in effetti sì, dove se per morale intendiamo il discernimento tra ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, per moralismo tra ciò di cui si può parlare e ciò di cui non si può parlare. Fra l'altro, in riferimento alla domanda, l'Italia è più maschilista, più omofoba, direi che le due cose sono collegate. Anch'io penso. E anche riferimento proprio a quello che è stato appena detto. Una componente enorme nell'omofobia è misoginia traslata, ossia che è considerato degradante per l'uomo, come se tradisse il genere, avere atteggiamenti femminili. Uh-huh. Questa è una cosa che discende addirittura dall'antica Roma, dove l'omosessualità, il sesso proprio tra uomini, era accettato, ma era considerato degradante il sesso penetrativo da parte di chi riceveva. Sulla questione del moralismo, infatti, c'è stata una querela che è arrivata persino sui banchi del Parlamento per un tuo gioco da tavolo, mm-hmm, che si chiama Squillo. Corretto. Che ha al centro, diciamo, dei personaggi che sono papponi, prostitute, persone, diciamo, legate un po' all'underground, diciamo, delle nostre città, quello che, mm-hmm, non si vede durante il giorno. E persino la Boschi ha scritto un post su Facebook dicendo, cito testualmente per non sbagliare, non c'è niente di divertente nella vita di una donna sfruttata e obbligata a vendere il proprio corpo. Che è vero. È verissimo. come ti difendi da queste accuse di aver, diciamo, in qualche modo strumentalizzato la sofferenza di alcune persone? Ma non sento il bisogno di difendermi, posso spiegare qual è il senso di un gioco. Non c'è niente di bello nella prostituzione, come non c'è niente di bello nella guerra, eppure esistono i giochi di guerra. Persino gli scacchi sono il basati risico sul tema della guerra. Certo. Quello è un vestito ed è finto, così come un film violento, un film dell'orrore, non sta provando la violenza. È sano finché è finto. Possiamo fare un appello a questi parlamentari di provare a giocare a Squillo? Se avessero veramente voglia di approfondire l'argomento, l'avrebbero fatto prima di fare 4 interrogazioni parlamentari. 4? 4 in tutto. Beh, mi sembrano un po' eccessive. Cioè, magari non ci hanno neanche mai giocato. Non hanno neanche visto la scatola. Partita, si trovavano un venerdì sera. Io ho letto i testi delle interrogazioni parlamentari. Non hanno neanche visto la scatola. Proprio riportano informazioni scorrette, mutuate da alcuni articoli disinformati che sono usciti. Lia, scusa, ti volevo chiedere questa cosa. Tu non so se hai mai visto il gioco da tavolo Squillo. Non so se ti è capitato tra le mani o ne hai sentito parlare. Sì, sì, ne ho sentito parlare, ma... Cosa ne pensi? Guarda, non so se c'è Grand Theft Auto come videogioco, non mi chiedo perché dove anche lì ci sono ammazzamenti e furti, come dice Manuel, ci sono giochi di guerra, ci sono giochi di criminalità, non vedo perché non dovrebbero esserci giochi di quel tipo. Poi io sulla prostituzione ho idee, diciamo, molto... Progressiste? Molto progressiste e liberali, perché se tra un esercizio di un mestiere da parte di un adulto consenziente al di fuori dello sfruttamento della criminalità è un mestiere come un altro, cioè paghiamo gente perché ci faccia la dichiarazione dei redditi, ci aggiusti la macchina, ci curi i denti o si massaggi, non vedo perché non dovremmo comprare anche buoni servizi sessuali. Salutiamo l'ordine dei commercialisti, cioè, in tutto questo ovviamente. Attenzione, nei nostri cuori. Cioè tu, Lia, donna femminista di sinistra progressista, sei a favore della legalizzazione della prostituzione? Assolutamente. In passato le grandi prostitute erano le uniche donne che potevano amministrare il loro denaro e guadagnare anche grosse somme di denaro. D'altra parte c'è un meraviglioso saggio nel libro Freakonomics che spiega come veramente la differenza fra la paga di un'operaia e quella di una prostituta, naturalmente che eserciti in proprio senza pappone, è talmente incommensurabile che ci si chiede come mai non lo facciano più donne. Cioè, la realtà dei fatti è questa. Cioè, talmente redditizio che la domanda c'è. La domanda di sesso è sempre stata enorme dalla notte dei tempi, e questo ecco perché la prostituzione è il mestiere più antico del mondo. Quello che mi disturba come femminista, devo dire, è la non reciprocità e la disparità, cioè è un servizio per gli uomini, mentre secondo me dovrebbe essere un servizio reso da uomini e donne a tutti gli uomini e le donne che lo desiderano. Liberi tutti, insomma. Bellissimo mondo, bellissimo. Io voglio, allora, Lia Celi presidente della Repubblica, Emmanuel Cassa presidente del Consiglio. A questo punto, ragazzi, farò change.org veramente. Allora, ringraziamo Lia, grazie mille di essere stata con noi. Grazie a voi. Ciao. Ciao, grazie. Ciao. Sia noi, sia noi che qui siamo soli qui, noi sì, soli qui. Fai di me quel che vuoi, sono qui. Faccia d'angelo, David di Michelangelo. Occhi ghiacciolo, danno di cose che mi piacciono. Ci son cascato di nuovo. Che succede? Chi si è sentito male? No, no. Si è sentito male qualcuno? No, cioè, dov'è ragazzi, Bugo? Dov'è Bugo? No, ah, ma c'è Emanuele oggi, non c'è Bugo? Gli è venuto un colpo e Emanuele non capiva. Questa è la scena, diciamo, madre di tutto il festival di Sanremo, che non so se tu hai seguito a pezzetti. Ho visto poi, ho recuperato clip. Lo show di per sé non riesco a guardarlo. Proprio non ce la fa. Beh, sono 6 ore, dico, è un sequestro di persona, ragazzi. Sì, ma tu metti su, non so, una parmigiana, una pasta, e stai lì, stai. Comunque, abbiamo messo Achille Lauro perché grande polemica sul la sua mise, la sua presenza sul palco. In realtà io ribadisco il concetto, si confonde sempre ciò che uno fa come artista da ciò che uno è. E quindi mi piaceva un attimo aprire un piccolissimo dibattito su Achille Lauro, ma mi sa che siamo tutti d'accordo su questo. Beh, no? Certo, io più che altro assolutamente non c'è niente da discutere, sì, credo che polemica in realtà non esiste, sono 3 persone su 1 milione che dicono ah cos'è questa roba, gli altri dicono che e figo. Lo scrivono su Facebook e quindi esatto, hanno risalto. Quindi sembra che sia la polemica del giorno, ma in realtà tutti hanno apprezzato e finita lì. Invece, a parte pochi, invece tu parteciperesti a Sanremo? Sì, Sì. Con allora, le tue canzoni, tra cui 50 la bocca Amadeus, e 100 l'amore. Amadeus, se ci stai, perché io so che Amadeus ci ascolta. Certo. Amadeus ci ascolta. Sì, certo. Emmanuel vuole venire a Sanremo l'anno prossimo. Lo farà ancora lui? Non con quel pezzo, perché un pezzo è edito, è l'unica ragione. Certo. Esatto. Assolutamente sì. Sono stato più volte approcciato da reality, a cui ho sempre detto di no per una questione di posizionamento, ma anche di mia esperienza personale. Proprio invece l'unico programma dichiaratamente rivolto al grande pubblico che farei con piacere, specie questa apertura timida però verso quel tipo di intrattenimento che possiamo un po' associare all'Eurovision, proprio correi, cioè, ci correrei proprio a gambe spalancate. Ok, abbiamo capito. Il concetto era chiaro. Allora, nel salutare Emmanuel, volevo chiedergli come ultima analisi quale dei tre sembra avere il QI più alto a questo punto, visto che sei presidente del Mensa Italia, e quale di noi potrebbe aspirare a entrare in questa lobby di intelligentoni. Poi noi, finita la trasmissione, proviamo a farlo, tanto dura mezz'ora il test, quindi lo faremo in uno. Esatto. Chi dei tre? Il test, permettetemi di dirlo, c'è una simulazione gratuita disponibile sul sito mensa.it. Allora, desumere il quoziente intellettivo da un confronto verbale non è scontato, perché ad esempio nel test utilizzato dal Mensa non si misurano le skill verbali. Quindi faccio fatica a dirlo. Dovessi direi Alessandro, dovendo sparare così. Grazie ragazzi. È che è il naso grosso, non c'entra nulla, ma va bene. Un po' di cervello è anche qui. Allora, vi ricordiamo, cari ascoltatori, che se volete contattarci potete farlo attraverso Facebook offtopic-radio24, Instagram offtopic24, la mail offtopic@radio24.it o WhatsApp 340-8303-758, e poi c'è il nostro canale YouTube. E ricordatevi che non conta tanto la grandezza dell'intelligenza, ma come la usi. Bene, grazie, ciao! Off Topic. Fuori dai luoghi comuni. Produzione a cura di Andrea Roccabella.